Buffone, voi alle di pollo con il disceno. Mormita, sì. Che fai chiedere? No, mi stavo guardando chi li mangiano. Domani c'è il tempo adesso, nuvoloso, niente sole. E c'è a vedere cosa dice domani, nuvoloso. Acqua niente, nuvoloso, è freddo, tutto nuvoloso, a Cagliari pioggia. Da noi nuvole bianche, nevi. È vero. Allora, me la bevi. Ma dormita sì. No, mi stavo guardando chi li mangiano. Caspita, ha fatto vedere un sacco di pulci belli, Beh, davvero, avendo di Nairo curato a Miami. Miami Beach. Ma vai a Miami Beach. E allora, a razza di coscetti, oh yeah, tutta quella costa, tutto il mare, dovevi vedere lì, oh yeah. E allora, tutti con un tanga era lì. Ti pazzi di mare, che cosa, te lascia a bici, lasciale a me, che a me mi pazzi di mare. Un sacco di possibili ha fatto vedere, anche nella zona, non in Africa, Africa, in quelle zone dove c'è il mare, però sono di colore tutta quella gente, belle pipie anche lì, e con 2 euro vai al ristorante e pranzi, fai un pranzo anche roba buona, con 2 euro lì. Che te ne con giuro, ma compagni non dici. E chi mi dirà la miglior pietanza di magna del posto, no? Con 2 euro, figura di due chi la vita cos'è, no? Non spendi un niente, e chi mi con 10.000 euro ti mangiano i ribidi. Per carità. E chi ti pigli un villone, fai che lo paghi senza la gamba sai, da 500 euro, una bella casa con la piscina e tutto, da poi ti pigli pure la servitù, buoni a 700 euro, ma fa sempre la servitù, devi vedere che fusti. A che anno era? A Rai 3, non lo so adesso se è finito, perché sto facendo cosa? C'è pubblicità, adesso te lo dico se è finito. E prendi la pubblicità, aspetta. Chi li mangiano è il programma? C'è allungata pubblicità, boh! Già sono lunghi. Per carità, rugori di via. Agli alle più di 4 ore, se finita va e torna. Boh! Oggi ho fatto un... Sì! Ma la faccio leggere, adesso mangio un budino. La frutta. Luca! Cosa? Ho fatto una passeggiata. Vabbè. Siamo andati a Conforama a vedere le cose belle, ci sono gli sconti su tutti gli articoli. Venerdì, giovedì, sono a Marina, ho ordinato delle sedie, ancora non l'hanno chiamata, è già passato un mese. E che sedie erano in legno? E allora? E aggiungi l'altra volta, lo diceva a me, ti accompagno io a comprarle, il legno. Da quell'amico mio, un grossista, me li dà a me, senza avere la cosa del negozio, come si dice. Ma a me le avevo già comprate, me l'avevi già detto, erano già acquistate, già pagate e tutto. Allora no, vabbè, pazienza. No, io ho preso un puffo di quelli dove appoggi i piedi. L'ha messo in salone Paoli e cosa di fare il tosto nuovo, perché l'altro si era affilato, ne esce di un pezzo, l'ha giubbato a pezzo e si era giurampato. Le sedie questo quanto le vende? È adesso non mi ricordo, quelle che ho preso io da Confora, ma c'erano, però non ne avevano, ci avevano solo il campione. E poi accentui la cadria. Però ce n'era una, allora no, non me ne ho ordinata. Chi da voi mi fa dire la città? A me mi ci viene subito. A chi l'altro se ne abbia buttati a Samarcanda, a quelle col fondo in paglia, era nel legno stesso. E mi ha bruciato pure di là che la gente mangiassi. Tanto mi dà zia due cicchi. E non ne le ho neanche più ritirate, qui laggiù la casa. E me le ho comprate con l'amico mio. Non mi ricordo se me le ha lasciate, 70 euro una. Cosa vuol dire che ha bruciato di là? Prima mi ha fatto un prezzo quando le ho portate, che le metteva in vendita. Poi quando vai a ritirarti la roba, se l'ha venduta ti dice però dovete abbassare la difesa, lo dovete mettere sotto, e mi ha portato due citi in mano, però aveva venduto un'angoliera. E la giustizia sapeva una cosa del genere, se le regalava e non ci veniva neanche. E cosa mi siete dire? Le musiche la miseria. Bisogna dirlo subito che ha detto quanto valgono 20 euro, per esempio, 20 euro mi devi dare, ne valgono 100, 100 nel fuso, poi ti arrangi, potrei poi prendere pure 1000 euro, che se ne frega, però a me mi devi dare 100 euro. No, a me mi ha detto, qui io devo pagare l'affitto, la luce, il trattamento, e che trattamento di te, e non li devi più guadagni a dare. Che cazzo, facciami prima se, a dirmi se me le lasciavi a regalo, te le avrei regalate qua. Cazzo, ma dammi l'elemosina, ma come lo aiuto io a ritirarmi lì di nano? Infatti le sedie le ho lasciate la giubbata, quando le vendi prenditi il caffè con qui su. Quanto valevano queste sedie? Era nel legno, oh, quelle lì me le aveva fatte artigianalmente, Santona, in falegnameria, lì su via Grazia Deletta. E il fondello era in paglia, però erano i lupi. Però a me non mi piacciono più con questo fondo così, me le ho comprate tutte in legno. Ci ho comprato i cuscini, ci sono i cuscini, quei cuscini alti, e sono più belle. Ma quanto valevano queste sedie? Santona a me quelle lì me le aveva fatte pagare 120.000 lire, perché allora c'era la lira, però erano fatte a mano e noi erano i perfezionate, proprio squadrate, artigianalmente, rustiche. Ma la di tutto? È morto, da lui i mobili me li avevo fatti fare. Tutto il soggiorno, la cristalliera quella che hai visto, la cucina, il tavolo che mi ho venduto, con i cadri di cucina, era quel tavolo grande con la traversa sotto, era un bel manno ed era fisso. Ed era un casino, si cominciava anche a troppo manna. E altri mobili che mi avevo fatto fare da lui, però poi me l'ha già venduto, regalato, li ho cambiati, là. Meno la cucina. Sì, ma queste sedie tu che ti hai portato a vendere, quanto ne dovevi ricavare i soldi? Io gli avevo detto che andavo a me mi dai 40 euro a cadria, se dai ti rivendi di più, ti rivendi di più, a me non mi sa tu, io voglio 40 euro a cita, vedi, sono nuove, si l'ha baitato, non si l'ha punti, luce. E mi aveva detto d'accordo, ok. Dopo, quando sono andato a distanza di due mesi, a vedere se l'aveva venduti. Le cadrine non l'ha venduti, l'angoliera l'ha venduta, però l'angoliera adesso non mi ricordo quanto l'aveva messa. Insomma, l'ha venduta e mi l'ha voleni due citi in mano. E gli ho detto, ma scusa, tu a me mi avevi detto che quella la mettivi sotto. E beh, ma l'ho venduta di meno, se no non riuscivo a venderla. Insomma, mi ha fottito. Quindi ho detto, pochi maledetti e subito. Che ti arrega a casa, torna. Qua preferisco, non ne porto più a lui, piccati la lampo, se no la butta a Portobello, vabbè, Buruvisu, e Matteo truffatore, Buruvisu gli altri fustiro Matteo. Se no molta roba mi la sto dando, la bicicletta nuova mi, oggi è giunta e si ce l'ha buttata, nuova. l'ho regalata. Vabbè. Ma chi è sta Maccanda? Quello che c'è di fronte alla piazzetta? No, in viale Porto Torres, dove c'era prima Carbuni, la ferramenta Carbuni. No, no, ho capito. Era pure che ci sono tutti i punti vecchi, so. La una volta con Maria sono andata a prendere una rete di quelle a doghe, non usata. Cavolo, voleva, non so, 50, 40 euro mi sa. E nuova costava 45 euro. Infatti siamo andati e abbiamo comprata nuova. Te l'avevo detto, io ce l'avevo in garage, nuova nuova, adesso mi ricordo. Ah, l'avevo data a mio genero, nuova nuova. E vabbè, perché lo so più. E poi me ne sono capitate tante altre di riti matrimoniali. E l'ho regalata, ce n'ho anche buttato. Da dove, amico? Ma noi se viva singola, la matrimoniale la nostra è nuova. Ehi, anche singole me ne sono capitate, anche da poco una, che se la gira da me nei buti. Io l'avevo comprata nuova lo stesso, la comprava a 50, boh, 55 mi sa, 65, non mi ricordo adesso. Ma guarda che quella roba lì la trovi anche a Portobello, mi ce ne sono anche nuove nuove ancora dentro il nylon, imballate, il nylon è Kitsumi. E mi sembra che le vende sulle 30 euro, non mi ricordo che prezzo fa. E quelle matrimoniali sulle 70 o 80 euro. Sì, vabbè, comunque, meglio comprare la nuova, se la fine è giusto. Ne ha usate, ma neanche nuove, nuove dal negozio, qualche negozio che ha fallito, capito. Ultimamente c'erano una filata di materassi nuovi, nuovi, e più le reti. Vabbè, ma quando la compri nuova ti hanno anche una garanzia, capito? Paghi 30 euro, non hai garanzia. Poi ci nuova, va la garanzia, se hai problemi te la cambiano. Sì, ma uno quando si piglia la cosa gliela baita, la bida a capo, no? Specialmente quando va a comprare in questi punti così Portobello. Se vedi una cosa che ti piace, te la controlli bene, te la esamini bene, no? Ci va di fitti, ci funziona, se non funziona. Noi che la pigli, la vedi e ti la pigli, no? E qualche volta ti pigliato qualche cosa la ci metta controllata. E se no non li pigliava, e se vedevo che c'erano difetti non ne prendevo. Ma alla fine solo mondetta avanti. E che questa era roba nuova, roba di negozio, in qualche magazzino vi la via. Qualche negozio che ha chiuso o fallito, capito? E figlia Rubiducci, mi sono cercato a città mercato. Quello l'altro giorno c'aveva nuove frigoriferi e lavatrici, anche imballate. Tutta roba di qualche negozio che ha chiuso. E ho notato che vende anche macchine quello. Quelle sono macchine che lui si compareggia. Ho visitato nella appoggiare chi va a vendere, lei te la vendi, se la vendi più si tenero tanto il giugno. E anche tu li date due cicci. E beh, non lo sa che gusti, mi devi guadagnare, no. E beh, lui te la fa mettere lì, si fa se non prendi giù e tu, da poi quando la vendi ti chiama, tu quando ti date tanto i tanti tasse? Già lo so. Dunque... No, ma quei frigoriferi che c'erano e la lavatrice e le lavatrici ce n'erano una diecina, anche frigoriferi, di tutti di carità, ma nemmeno tutta roba nuova, in qualche negozio quella roba. E allora frigoriferi ce n'erano anche vendendo a 100 euro. Che cazzo, andava allora. Hai visto la foto di Gio Maria? Ehi, gli ho mandato il bacino. L'ha già scritto. L'ha già scritto. Affanna, prima di ho fatto la rosa, manco dei 2 minuti qua. Boh. Deve fare il soccorso. Sì, ma ogni tanto mi viene questa tosse. Noi stiamo mangiando un poco da lacchiti. Boh, però. Ho mangiato pure troppo. Mi si voleva fare una cattura di datteri, di quei datteri, i datteri. rettangolare, ma una burro. C'ho una tavola di cioccolato fondente, ivi, ma ivi. Una giugana, mi rimane il chicco se mi viene la gana, mi fa un pandoro e non capisco davanti a me, ma se non ne voglio non ne mangio. E allora, lo buon morso. No, allora, qua cioccolato viene un bel, a chi ti viene, e non li mangio. Mi piace, sai quale? Quella al latte con le nocciole in mezzo, qualche pezzo già lo mangio. Mi quello lì è lì, mi ha appoggiato qua sul marmo, paletta di le magnini, io ne ho assaggiato il giorno che l'ha aperto, un quadratino, va. Però è grosso, mi non è fine. Quello della Linze questo qua. Non so, comunque, buono è buono, ma va tutti i nocciolini in mezzo. A me, senza denti, mi date fastidio. Cioè, è buono, io me lo mangio, però noi andassimo male. Adesso quello fondente, l'ha recuperato, ma così rigato l'ha. Vabbè, un pezzettino di... Adesso mamma va via, sto controllando le glicemie. Oggi, stamattina sono andato a casa, no? E sono misurata alle 3, quasi alle 4 di notte di stamattina. Era 243. Io ieri notte perché mi ho mangiato minimo da lì un 7-8 caramelle alla frutta, però erano disi normali, no? O ripiene di frutta, dolci dolce da 264 cari ultimi. Perché siete bugiardi voi. Vabbè, tu lo dici quello che mangi, ma lei è bugiata, lei dice che non ha mangiato niente, la glicemia, se tu non mangi cose che non devi mangiare, non sale, capito? Però ogni tanto c'ha anche la 126, 130, però catta, 243 o 246, adesso non mi ricordo esattamente, comunque siamo lì, dai. Vabbè, stamattina ce l'aveva 135 quando mi sono svegliato. Poi prima di pranzo ce l'avevo 101. Dopo più tardi me la misuro e vediamo quanti mi lascio. Caramelle me ne ho mangiato 4 e 4 e bu. E il caffè. Ma dovete stare a... Qua posso mangiare io, che non sono diabetico. Io posso mangiare protesi, però... C'è bisogno anche una regolata, capito? Ma voi dovete dare una regolata, poi mamma più di te per il cuore. Lo so, però anche io ho il problema al cuore. Io piglio tre pacchini. Va via un colpo da panno quando ne rotturrete la chitarra, ma non vale già c'ho la bomboletta appresso. Sì, ma vi dovete dare sempre una regolata, è inutile che voi mangiate cose che non dovete mangiare. Io adesso so che lei si mangia anche le paste, perché quello là va, le compra, le compra sempre in più, e se di chiede non ce la mangia, ce la vedi. E io penso che si mangia più di una, e lei nega, capito? Quello che mi ha fatti da me, mi si girano le palle, che nega, perché chi se l'ha presa, cioè... Ce l'avevo io in cura alla fine, facevo mangiare le cose giuste, pesate, non mangiava dolci, se mangiava la pasta non mangiava il pane, e viceversa. Allora faccio tutto di capusoio, mangio gli affettati, soprattutto pane, mortadella e fontina. A chi fa i gusti e cosa gusti? Io però se mangio la pasta... Il pane lo evito. Oggi per dire mi ho mangiato la metà di un piatto di plastica di pasta poca e una fettina di cavallo con un pomodoro e 4-5 pezzi di peretta e pane un pezzettino ne ho mangiato, cosa posso dire? Quelle focaccine triangolari, la metà di rissa, quelle piccole. Lo so, però lì deve stare un po', mamma è anche troppo grassa, abbiamo ingrassato, infatti detto, ti puoi pesare, no, che usa è Io mi sono messa 20 kg di bozzo. Così ha detto quella... No, se no 20 kg no, forse 10 kg. Comunque più o meno siamo lì. Quelli lì, quei 10 kg non li dovevo prendere, perché stava andando benissimo, le glicemie erano perfette. Poi se ne è fregata e non andava bene, grazie. Cioè uno lei che se ne prende cura... infatti io gli ho detto, se tu di nuovo torni a farti le insuline, io non sarò presente, arrangiati. Io qua mi sono pesato stamattina e pesavo 74. Però il mio peso è sempre quello, 69, 70, 71, 72, 73, 74, poi 72, sempre così è il mio peso. Poi mi abituo, si anda a pisare dopo, se arriva a 75 me la accorgo subito. A chi mi viene più spesso la fanno, compreso. Lo so, però è inutile, vi dovete dare una regolata. Io già mi regolo mangiando, mi diviso un bel di voi, la sera non ce n'ho neanche, mi faccio il tè e mi mangio due fette biscottate, le pongo un poco di marmellata e sono caputi. Cade la che è abbassata, tre minuti ho cenato il tè, una scodella di tè e due fette biscottate. E boh, non è che io sono un mangione, no? E a me mi butti i livelli, magari le caramelle, un pezzo di cioccolato, che cose così. Se no... Lo so, purtroppo mi devo tenere una regolata, perché se no è un casino. Vabbè, grazie, dai, che adesso mi faccio accompagnare a casa, che lì domani lavora. Niente, io domani devo andare a comprarmi dei soldi pochi, ma so vinaghi mi divinità, ho fatto un lavoretto e niente, dai, nel caso io ho il baracchino a casa, ma è già tardi, comunque sono già alle 7:30. No, niente, allora mi arrivo a casa, porto il cane a fare i bisogni e poi l'insulina è già pronta, l'ago la stamattina gliel'ho preparato, magari gliela fa anche mio fratello, io mi zicco appena arrivo a casa, tanto ho mangiato. A domani, grazie, ciao. Ehi, ciao, a domani. Ciao, saluta Marina, ciao. E allora, ricambia Paoletta, ciao, grazie, ciao. Ciao, ciao. Chi è che voleva entrare? Chi è? Sono voi. La parrucca è fatta, te l'hai. Cos'è? La parrucca tolta, te l'hai. Ce l'ho ancora. A chi interessa? No, mia, Luca, vendila. È bella, ti è piaciuta? Ehi, è bella, con il rossetto, proprio un bacio. Anni fa che mi sento, Ehi, assaggi bene, parommi. Cosa? Che sappi bene. Questa l'ha fatta la bambina, 8 anni aveva. Ehi, già lo so come... Ce l'ho anche io, l'altra volta l'ha fatto burui. È già uscita bene, là. Anche l'altra. Graziano. Ehi, ciao. Bacchi, a me sei. Ehi, buonasera a tutte e due, non mi accoppiate? Domani a Bacchino non lo occupi. Devo avanti, Bacchino, buonasera. Buonasera Giovanni, pensiamo che non stavo uscendo, ho chiamato due volte, tre volte, boh. E invece già va bene, andrà bene a mezza. Avanti ancora Giovanni. Oh, grazie, ripeto, non ho capito bene. Pensava che non stava uscendo, ha detto, capito. E niente. Bacchi, perché quello che non funzionava è questo? Ah, Bacchi si è caduta la sedia. Buttacelo Bacchi! Sono mal di gola, la mascamicidia. Quello è il coso, Graziano mi ha contagiato, va. disgraziato, mi ha mal di gola, sì. Sto con la dieta, mi sto prendendo lo sciroppo. Poco fa ho finito di fare l'aerosol. E a me mi sta venendo oggi, tutta la sera sono con il tosse addosso. La sto prendendo, nessuno ne vuole. Non si piglia ni la mia, si piglia ni la tua. Però poi... Avanti, sono lì. Comunque, va bene, un bel radio, dai. Non è forte forte, però già abbastanza chiaro, dai. Già va bene, ma chi, dai. Però, datti a Graziano, c'è un abisso, però. Graziano arriva fortissimo, mentre tu invece arrivi massimo, nemmeno segnale c'è. Ma tu devi pensare, io sto andando con un minimo 50-60 metri di cavo. Allora si capisce benissimo, dai. Va bene così, non è vero Graziano? Ehi, no, io già lo sento bene a Battisti. Tu sei più vicino, sei, cazzo, se lo senti tu, città. No, è perché magari già è chiara, ma è basta rimane la radio, capito? Dalla tua alla sua c'era un abisso, capito? Ecco, però si riesce a capire abbastanza bene. Perché quando parli tu io devo abbassare il volume, quando c'è macchina devo aumentare, capito? Chiaro. Capito, Bacchi? Vediamo un po' con un altro, ne mettiamo un altro in funzione, a ver se arriva meglio. Ehi, è pronta quest'altra invenzione. Bacchi ci ha detto, Giomari, che prova un'altra invenzione a vedere se ascolti meglio. E vabbè, siamo qua. Ehi, Luca ha chiuso adesso, si è stata al monte. Ehi, sarà stato per la mamma, là. Allora si fa di sentire, no, forse non ce l'ha più a me a casa della mamma. Guarda adesso. Prova che Gio Maria pensa ti sente. Guarda, mi senti? Adesso ho cambiato, ho diminuito, ho aumentato, che male vava. E adesso è più forte la radio, Adesso va bene. Qua c'è il portatile, qua è la stazione fissa. È vero, grazie, non è più forte adesso. Sì, è più forte, ci sento anche io più forte. Perché l'ho messo sotto accetto questo, grazie. Se avete sotto accetto gli apparati, diciamo, funzionano. E va, tu vai. I canotti li do con poco d'acqua vita, adesso li fate bene. Magari due, tre bicchierini. Tre tazzoni, io so bicchierini, bicchierini mancano un naso, non ripeto. Da poi riesci a pompare bene. E perché col bicchierino lo gusti meglio, mi. Da poi riesci a pompare bene, ma chi? Ehi, dove l'hai incendiato? Vabbè, dai, continuate, io sto facendo cosa che termino qua, vai. Se ti sento fra 10 minuti già entro. Ok, grazie, riprendi. Ehi, va bene, Gio Maria, per assente, tra 10 minuti già siamo ancora qua, penso di sì, che adesso è 10 minuti già ci siamo ancora. C'è mezz'ora di tempo per fare il merendero. Ehi, avanti, grazie, non c'è nessuno stasera, Tore squallido non si sente, Marino non si sente, Luca non si sente, tutti a dormire. Tore sarà partito secondo me in Africa, Marino se farà di un posto. Ah, in Africa è andato. È andato a vedere gli squali bianchi. E allora? Sì. E cosa vuoi risponda? Tore, è sparito questo ragazzino, non si sa che fine ha fatto. O sei venduto? No, oggi deve essere via Vigliola in casa, via la Vigliola da Londra, via venì. All'imane è giunta la Vigliola da Londra. Ecco cosa è impegnato. Ah, ecco, allora va diventa Re Carlo con Re Diana, no? Come si chiama, Lisa? No, cosa, va, sta corteggiando come si chiama? Camilla sta corteggiando. Ah, Camilla è sta con un caffè, e noi la bimbetta lì di Diana, eh? E invece la posso ricorrere, ma un cesto. E qui sta che bella che è una bella donna, si è acciappato in notte, ne piglia un asciutto, che c'hai una lunaghetta corrente. Dai, questo, e guarda, hai fatto la coppiata. Però qui c'è il figliore che va. I figliori già sono in gamba, pure i minori sono in gamba, tutti e due. Chi te sarà gravida? Chi sai se coiuvata? Sì, io sono il quarto figliolo. Ha fatto il principe, il principino, la contessa, tutti i refendi, 4 anni. Invece il mio minore, sa figlia di Sagorra un chiavece, nasce a gennaio, no, a febbraio pare che nasce il primo genito. Chi sa detto, io che trombemmo un bel, tanto ridirà, non ci sono problemi. Non ha lasciato lo di dai, venite in aria sul castello. Io penso, neanche lo vicino c'è a fede di là. E la voce non va già avanti, a mai dalle figliuglie, non più via un tempo. E mi pare a mai dalle puraetto. Senz'altro, vado pure va la badante. E allora, che l'accompagna a tutti i rompi, durava e tutto. La figlia del dolore si sa fa, siccome io ho un principino io in Londra. E allora, da voi la riga, da voi vive a Londra andano a caccia della volpe lì, a cavallo. Sì, sono a caccia della volpe. Meno che in Sardegna forse volpe vi so più volpe che genti. E allora, però Tore non ci avvisa niente, è sparito proprio, No, Tore è andato male, ha perso il colpo, ti dico. Ha perso il colpo. Se si è andato a Londra e non si è tenuta, lì si è andato a Londra senza acqua, un po' la figliola se ne è andata a farsi i figli. E allora? E da poi quando rivene, no, che rivene, gli fa vitare in Cristo. Ah, dopo non lo spieghi manco da Salesio, in tavola d'inglese. E allora? E poi oggi in campagna, Sì, sono sceso a vedere, grazie. Ma non si può fare nulla, è tutto rotto. Poi, sopra in cose, malattia, non posso fare nulla. E beh, e cosa fai? Che figlio cosa fai? Arriva a parte la rinuncia, ma a te, rinuncia, sto bagnato, non si è fatto bagnato. No, io sono andato a fare una passeggiata, mi sono pure entrato verso la 1:30. Ma a piedi sei andato in macchina un figliura? No, in macchina, lì la fredanietta. Da comporama, paesà, così in macchina a piedi non vado. La capitaletta a piedi l'hai fatto già, se lo posteggio entrare a comporama l'hai fatto una passeggiata a piedi, non sei entrato in macchina anche dentro un negozio, no? No, e infatti la bocca a bicca, e anche dentro, no? Poi è una bella giornata oggi, Era bella, al caldo, il sole è al caldo, però all'ombra aveva freddo. No, all'ombra manco barriera, al sole si stava bene, all'ombra manco, quella freddo in ombra. Che c'è se vado a prendere a mangiare i cucciucci? E mi sono sposato dentro la macchina, al sassone, si scaldia così bene, una meraviglia. A sto poi ci sono cominciato a calassola, ho detto io sono andiamo a casa per una bella figura. Abbiamo fatto una passeggiata per vedere, come c'erano un sacco di offerte, sconti contro sconti, E che c'è lì la gente comprando? La gente ha più tempo la domenica. È il giorno di festa per andare a fare gli acquisti. È già una cosa buona che aprono anche la domenica sera. È tutto il giorno aperto, ma di commessi sono pure palle girate. No, io mi ho preso un cucco per il salone. E il tosa fa quello che fa il tosse nuovo, me l'ho comprato, quell'altro ce l'ho buttato, si era affilato, se l'ha giù lampato e bisogna poi in coso in pensione quando lo serve, via, vai a dormire. Cosa ne fai? A tenere in barracchi? No, già serviva, già era di quelli al libro, metti il tosso dentro e abbatti il soffio, è già funzionato. Però c'era affilato un pezzo all'interno, e invece i grubetti che si poteva utilizzare, ma a me hanno una cosa, la vecchia facciata non mi piace, la giù, l'ho fatta a mille pezzi, la giù di là, dove mi dice la giù la fa? Ma già passa il grubetti, si accuglia da voi, già passa io con la motoletta a Caferro. Siccome quelle piastre sono in alluminio, l'ho messo insieme alla plastica. Ah, ecco, l'hai già buttato nel cassonetto. E alluminio, non so cos'è alluminio, se, o se zamo, che malasso ti è. E vabbè, ti sono scivolato i geneti, No, sono due piastre in alluminio, la parte interna c'ha uno scafo rettangolare e c'è una serpentina in rame e tre fili, il negativo, il positivo e la massa. Scalda questa serpentina e scalda la piastra, capito? È una cazzata è a fare, ma ha detto va, me la recupero con la serpentina, oppure tutta la piastrina posso trattare la qualche cosa, ma ha detto ma la cosa a fare imbarrata, di mica te sta giù lampando tutto. Tu prima hai fatto un poco di lungo, tanto su te di dico oggi arrimonimo con i miei chivi, poi mi vado pure io. Non ti lamenti che virai e ne compri un'altra. E chi si rimane sempre di muso in subduro? E infatti, un bel di volte molte volte non riesco a trovarlo quando lo cerco, quello che sto cercando. E dico, avanti mi rubiglio, andare un negozio e mi rubiglio lungo. Poi quando non si serve ti ragazzi in mezzo a ripeti, chi ci viene arrivato. E succede così. Succede proprio così. Quando non ti serve, la ciappi, quando ti serve, molicheggi, mille monti, non riesci a farlo, rimuso vero, invece vai veramente a luce. E anche non lo so come fate, stava alla freno, ma mette così i rosicchetti. Poi mi sono stufato e non ne ho più cercato, ha detto ma va a fanculo, non mi ne ha putticando la gatto, va a farà già pensare. È così. Come ti va a salire perché non, perché non va rilotto, non già venne 5 scelte va rilotto, perché non va rilotto, nulla, non ha già avuto nessun luogo. Ha detto beh, posso prima andare a comprare a Milo, sono fatto del defusaggio, ho comparato. Faro da posare, ha vinto a pigliare i ferri e mi ha pure la bocchina con i vari rotti dentro. E io, sai quante volte mi ha già baitato? Un sacramento di bocca, non l'ha già mai vista. E anche a me mi va di così, ma prima quando stai sempre i sargenti PL, i particelli, ma via tutti in mezzo a ribita, va venati un po' a dritta, un po' a sinistra, non me la fottuta, tanto non ci sarà più nulla, non mi tarissa. Ui, chissà che ha una bacio, va. Qualche saldatura ancora me la posso, che faccio, lo posso sempre. Solo una caldina ci ho guidato la cosa, da lì, di vera lo stagno, per saldare. Allora ci vogliamo dire che un rocchetto di dosso, di filo. Beh, sai, filo passa, filo continuo, passa la matrice a filo continuo. E ve la finito, filo per salutatrice con un decapante. Ed è invece acciaioso, non si fa niente. Eh beh, no, ma lo stagno lo vendono anche dai cinesi. E dai cinesi mi danno, io una volta l'ho preso dai cinesi. Ed era buono. Non lo so mai visto, ho pigliato questo dai cinesi, lo pigliavo sempre. In che cosa lo piglio? Alla CBC da dove? Ehi, ma dai cinesi già lo vendono anche lo stagno. Uno risaldatore vendono, ma... I soldi di cinesi si vendono tutto, tutto da ciappa. Si fa il denaro, si sono di tutte le cose, mi sono. Però se ti vuoi, sono buone, se ti vuoi, non seguimi. Non so, chi filo con lo stagno non lo si mai pigliato, questo può saltare. A chi più il coso, deve avere il decapante interno, capito? Boh, io il saldatore nuovo ce l'ho, ma l'avevo comprato. Che ci metti anche il saldatore appoggiato lì e funziona benissimo, l'ho usato una volta e non volevo, l'ho usato una volta, poi di quella penna così ne ho due, poi ne ho una pistola o due mi pare in garage e una addirittura c'è la lampadina, quando schiacci no, o si accende la lampadina. Capito, no, io ne ho una pistola che quando stai saltando ti manda lo stagno automaticamente e ci manda lo stagno sulla punta del salvatore. Ehi, ma prima mi pintavo di più e li usavo più frequente, adesso non me ne ha finito. Mi avrà già saltato sui due BL, quando mi già brucavo e la preso tornare in basso. Infatti. No, prima ce ne facciava, cadere sempre i prendi, perché attendi, li montendi e prendi, ma là non vede più gana. La mica i segreti, la mica comincia a calare un po', quando mi dato il fastidio a paesare tutti i corsi. Ma poi prima mi variava bene, va, già non ve più nessuno, in chi si va a chi. Ma se pare che mi aiuta a pittare in queste cose, ma non mi interessa, ma ne manco bare idea. Prima la microfono mi va via con varie particelle di un genere, attaccavo lo spinotto, cosa fanno? Ma non tira più la cosa, non la va a fare, non viene gana di stare io a pretendere. Prima già faceva, va, c'ho il DM1000 nuovo, l'ho comprato, però chi su baracchino volevo buttare contro là, lo potrei modificare perché è un'altra radio, ma non mi interessa, lo da Guguzzi, va. Sì, va bene, ma si può pure far controllare, dargli una specchiata per cosa va. Quel baracchino lì a cosa lo dovrei portare quando salgo lì, se me la baitai, a vedere che sono effetti qui fatti. Funziona bene, dopo di un po' se ne va fuori coso. Fuori frequenza va, scivola vuol dire. Va. Prima credi dall'alimentatore, va bene, punimo l'alimentatore da 50 e non è dall'alimentatore. Poi il microfono, va bene, avare il migliore di N1000, fatto e tutto, la matta e cose. È proprio dalla radio che bisogna controllare. Infatti bisogna controllare la radio. Capisce come un ricevitore va via io. Mi raccontando di andare un canale. La canta finita che abbiamo saltato 2 o 3, si è portato. Buonasera. Buonasera signor Marino, avanti. Buonasera da Chidio, c'è anche Graziano, non so chi c'è ancora. Bene, avanti Graziano. Ciao Marino, vai adesso chiudo là, che devo fare l'insulina Mari. Al limite ce la sentiamo domani se rientri presto. Vabbè, ciao Marino, stammi bene, ciao Bacchise, ciao Gian Maria se sei in ascolto, ciao chi è in ascolto. A domani, riprenditela, Mari, ciao. Ok, ciao, grazie, avete sentito, saluto in casa, domani si coincide, bene, avanti, Bacchisio. Ciao Mari, Graziano, buona serata, saluto in casa, a domani, se Dio vuole, ciao ciao, buonanotte. E allora Mari, come mi stai ascoltando oggi? Bene, Bacchi, bene, bene, ti ascolto benissimo. Ho collegato l'antenna grande, oggi un po' cavo Cavetti e sto andando con l'antenna grande. Benissimo, io ti ascolto benissimo, io c'ho anche invece ieri sera quando l'ho accesa e poi magari è venuta gente a casa, ero su con quello là, col gommino, e tu bene mi sentivi, sì? Sì, sentivo bene, ma con i piccolini ieri. Esatto, col piccolino, sì, ero col piccolino e via, sentivo c'era Graziano e company, abbastanza bene. E oggi stavo guardando su internet, sai cosa vengono a costare? 14,90 1. La cifra è quella lì, è da chi? La cifra è quella più o meno, dai. Sì, spedizione gratuita, no? Ma risparmi dunque 6 euro. No, neanche, sì, 6 euro puoi risparmiare. Esatto. Più o meno la cifra è quella, se ti fa una passeggiata magari vai di là dove ti ho detto, probabile che ce l'abbia, non lo so, in quella zona di là. Io mi faccio il salto domani, se ho 10 minuti di tempo, a vedere un po'. Esatto, aspetta un attimo, ma chi è stacco una cosa, esco fuori con quello là, aspetta un attimo solo che se c'ho, aspetta un attimo, uno, qui, qui a posto. Accendo l'altro che devo contare una cosa fuori, ma chi aspetta che... Ah, si è acceso, spengo qua, accendo l'altro. Si è uscito al rato, non so perché, forse si è allontanato e non ti ho sentito. Il segnale c'era ma non c'era radio. Acchisio, questo è l'acchisio. Marino. Attenzione Marino. Senti adesso. Allora, attenzione da qua. Stai uscendo Marie. Allora. Ma chi? Dormito su. Ciao Luca, buonasera. Sono giù, grazie. Ci sei dormito solo. Dormito. Ci sentiamo domani, dai, ok, ciao Bacchi, ciao. Dove stai Marì? Adesso vado domani, domani lavoro Bacchi. Ho capito. E allora anche per me. Va bene Marì, ci sentiamo domani, ciao, buonanotte, saluti in casa, saluti anche gli amici che sono su questo canale, su questa frequenza. Bacchi vi saluta e passa in QRT. Bye bye. Ciao Bacchi. Ciao Bacchi, a domani, ciao. Ciao, che sono stato Bacchisio, ciao.